24 mattino di Alessandro Milan. Eccomi qua, buongiorno cari ascoltatori. Ebbene sì, sono finite le vacanze, le mie vacanze, forse anche le vostre che state ascoltando. Buongiorno e ben ritrovati con 24 mattino. Partiamo alle 7:20 e per questa settimana, dalla prossima chissà, forse si dormirà anche meno, saluto l'alpino Peter Bescapello, ritrovo qua, lui in vacanza non c'è da un bel po', ne ha dimenticate ormai. Allora, il menù è sempre quello, inizieremo tra poco dai giornali, dalla lettura della rassegna stampa e poi oggi parleremo un po' di doping nel mondo dello sport. No, il caso di Lance Armstrong lo sapete, è l'ultimo, hanno beccato anche un nostro atleta azzurro alle Paralimpiadi, l'hanno già squalificato. Vabbè, ma non solo, no, è molto diffuso il doping nello sport, non neghiamolo, forse anche molto di più di quello che i controlli ci farebbero capire. Ne parleremo poi alle 8:30, avremo ospite anche Pietro Mennea, una grande leggenda dello sport italiano. Parleremo anche di quel referendum anticasta, ve lo ricordate, quello per cui si sono raccolte tante firme? Abbiamo finito a luglio anche con una trasmissione molto molto vulcanica, abbiamo recuperato la leader di quei referendari che hanno raccolto queste firme, ma queste firme non si capisce se saranno utilizzabili oppure se sono carta straccia di fatto. Ne parleremo più avanti, ora dai, andiamo a leggere i giornali in edicola. In questo lunedì 27 agosto vediamo i titoli. Intanto il Sole 24 Ore apre con il rischio evasione cresce al nord. L'edizione del lunedì, c'è una mappa molto interessante che poi vedremo sull'evasione fiscale in Italia. E poi invece gli altri titoli, chi ha uno sguardo europeo come Repubblica, dalla Germania attacco a Draghi, e così La Stampa, Berlino stop a Draghi, niente tetto agli spread. Mentre Il Messaggero, beni dello Stato, ecco il piano. Chi invece si concentra sulla politica nostrana, Corriere della Sera, una grande rissa a sinistra, Grillo risponde a Bersani, fallito e amico dei piduisti. E così Il Giornale, sinistra allo sfascio, mentre L'Unità, Grillo non fa più ridere, e questo è il titolo di apertura dell'Unità. Queste alcune delle aperture, voglio subito andare a alcune notizie, alcune chicche che ho trovato dal mondo della politica. E la prima la trovate sulla Stampa, ne scrive Mattia Feltri a pagina 4. Sappiate, cari ascoltatori, che c'è ora una sentenza del giudice bollata che dare del leccaculo a un politico non è reato. Questo almeno stando a una sentenza di un giudice che ha assolto un blogger che aveva attaccato un ex parlamentare del Popolo della Libertà. Scrive Mattia Feltri nell'articolo che trovate a pagina 4, il titolo per la verità è più edulcorato, dare del leccapiedi è un complimento, in realtà l'insulto non era proprio questo, fare i leccaculo, scrive Mattia Feltri, è un talentaccio, altro che miserabile attività, ci vuole testa, non soltanto lingua e capacità strategica, lo ha stabilito così il giudice di Genova, che ha mandato assolto il titolare di un blog che aveva ospitato un giudizio brusco su Enrico Nan, avvocato, deputato di Forza Italia dal 94 al 2008, prima di restare fuori dal palazzo, passare confini e diventare coordinatore ligure di Futuro e Libertà. Cosa era successo? Era successo che su un blog, uominiliberi.eu, un sito di politica savonese, un navigatore avesse detto tutto quello che pensava sulle origini del successo di Nan. Per esempio ha scritto: l'onorevole ha perso più battaglie lui che l'Italia a Caporetto, e vabbè, e questo non è niente di offensivo, però è sempre lì, non per capacità, ma penso che il termine giusto sia leccaculismo. Ecco, di su questo l'ex onorevole Nanzi si è sentito oltraggiato, diffamato, ha fatto causa, ha chiesto 100.000 euro, ma gli ha perso la causa, e dunque dare del leccapiedi, o meglio del leccaculo, è un complimento. Così si può anche vincere dalla sentenza del giudice addirittura. Le parole stampate dalla toga, infatti, scrive Mattia Feltri, sono queste: Nan, cioè l'ex onorevole in questione, rimane sull'arena non per l'impegno dimostrato, ma per l'intelligenza non apprezzata, ma comunque anch'essa certamente politica, con cui si relaziona a chi può deciderne il destino. Ecco, questa è la traduzione di lecca culo secondo il giudice, per cui diventa quasi un complimento secondo questo magistrato. Vabbè, visto che si è parlato di euro o cause o migliaia di euro, ieri Giuliano Amato, intervenendo alla festa del Partito Democratico, ha chiarito quello che è uno delle questioni che ogni tanto ad Amato vengono tirate fuori nelle interviste, vale a dire quanto guadagna di pensione, vitalizio, perché viene identificato come una delle persone più fortunate in Italia, dei politici, di chi ha fatto politica per tanti anni da questo punto di vista. Beh, Giuliano Amato ha chiarito, ha voluto chiarire al partito, alla festa del Partito Democratico. Giuliano Amato prende 11.500 euro netti di pensione al mese, sono 22.000 lordi, la mia pensione è 22.000 euro lordi al mese, lo trovate su Repubblica a pagina 8, ma lo trovate anche sul Giornale a pagina 5, dove il titolo è abbastanza così irridente: Amato, un povero pensionato da 11.500 euro al mese. Guadagno appunto 22.000 euro lordi al mese, sono 11.500 euro netti di pensione. Sono andato infatti in pensione con, non per mia scelta, ma come presidente dell'Antitrust, con i parametri della presidenza della Corte Costituzionale, questo prevede la legge, mentre mediando gli anni di servizio da docente universitario, quelli da presidente dell'Antitrust, insomma facendo tutti i calcoli, viene fuori 11.500 euro netti al mese. Poi c'è il vitalizio da ex parlamentare, ma questo, ha detto Amato, faccio tantissime cose gratis, per esempio devolvo in beneficenza quanto mi viene retribuito come vitalizio parlamentare. E dice tra l'altro: ne parlo malvolentieri, la vita privata deve restare tale, quindi parlo malvolentieri di questa beneficenza che faccio. Aggiunge anche: questa vicenda mi ha infastidito e mi ha ferito non poco. Non si capisce in questo caso perché, comunque mi ha ferito non poco questa campagna, per cui sento il dovere di fornire le cifre. Le cifre le ha fornite e sono queste, sono appunto 11.500 euro netti al mese. Va bene, facciamo così, fermiamoci qualche minuto, 4 minuti per la precisione, poi riprendiamo. Ricordate che potete anche scrivere i messaggi 349-238-6666. E poi non l'ho detto, siamo anche su Facebook, siamo anche su Twitter. Alino Milan mi trovate lì su Twitter. 24 mattino trovate la trasmissione. Insomma, siamo connessi, connessi. Tra poco ci risiamo, Eccoci qui allora, alle 7:32 minuti, continuiamo la lettura dei giornali. Da dove vogliamo ripartire? Dall'Europa forse? Beh sì, dalla situazione europea che dà modo di titolare alcuni quotidiani come Repubblica: dalla Germania attacco a Draghi, e anche Berlino stop a Draghi. Questo invece è il titolo della Stampa. Che cosa è successo? È successo che il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha duramente criticato la Banca Centrale Europea e quindi anche Mario Draghi come presidente della Banca Centrale Europea. Come racconta Andrea Tarquini su Repubblica, pagina 2, Weidmann attacca Draghi, scabroso mettere tetti agli spread, l'Eurotower sia più trasparente. Jens Weidmann è sceso in campo con tutto il peso e l'autorità del presidente della Bundesbank, dicendo no all'acquisto di titoli sovrani da parte della Banca Centrale Europea, perché i finanziamenti della banca somiglierebbero a un finanziamento degli stati stampando moneta e renderebbero i governi tossicodipendenti come da una droga. E queste le parole molto dure del presidente della banca centrale tedesca. Rifiuta l'idea Weidmann che l'Eurotower fissi un tetto allo spread o differenziale tra gli interessi dei titoli sovrani, bassi o nulli quelli dei bund tedeschi e alti quelli spagnoli e italiani, perché è un'idea scabrosa. Lo scontro dunque tra rigoristi e interventisti sta portando sia i governi europei sia il vertice della banca centrale a un passo dalla spaccatura. E allora in questo contesto molto di critica da parte della Bundesbank nei confronti della banca centrale europea, che interviene anche il cancelliere tedesca Angela Merkel con un'intervista che è stata data alla TV tedesca ARD e che Repubblica propone a pagina 3, e Angela Merkel difende la posizione del proprio presidente, presidente della banca centrale Weidmann. Dice infatti in questa intervista Angela Merkel: la BCE è indipendente, secondo me, ma Draghi agisce nel rispetto del suo mandato, ma io sostengo Jens Weidmann e credo sia una cosa buona che lui come presidente della Bundesbank abbia influenza nella BCE e invii ripetutamente i suoi moniti ai politici. E ancora ribadisce, se non fosse chiaro, Angela Merkel: l'appoggio a Weidmann lo do volentieri in questa intervista. Trovo sia bene che Weidmann lanci e ripeta i suoi moniti ai politici. Oggi ha detto che il fiscal compact è solo un primo passo, ma non sufficiente. Ha sottolineato che dobbiamo migliorare la competitività, anche usare gli strumenti anticrisi quando necessario. Non trovo dunque inabituale che nella BCE ci siano discussioni, che Jens Weidmann, come nostro presidente della Bundesbank, abbia quanto più influenza possibile nel consiglio della BCE, lo ritengo cosa buona. Insomma, un Angela Merkel e un presidente della Bundesbank allineati in questo attacco molto duro, molto frontale, nei confronti della linea di politica finanziaria che si profila alla BCE. Sull'altro fronte, invece, quello della Grecia, vale a dire il paese che più rischia, e secondo molti è solo questione di tempo, di uscire dall'eurozona, la Merkel invece cerca di gettare acqua sul fuoco su interviste anche molto molto molto dure che ci sono state in Germania, per esempio quello di quelle che sono state definite dal premier greco esternazioni tossiche, per esempio quelle di Alexander Dobrindt, che è segretario generale della CSU, i cristiano sociali bavaresi, che ha detto in pratica che si augura l'uscita di Atene dall'euro. E allora in questo Angela Merkel ha ribadito invece no, ha difeso la Grecia dai falchi in Germania che ne vorrebbero la fuoriuscita dall'eurozona. In Grecia c'è un impegno serio, dice la Merkel: dopo 2 anni avevo perso la fiducia, ma ora credo nel premier Samaras. E dunque un Angela Merkel che cerca di fare un po' da pacere invece nei confronti della linea dei falchi, che in Germania sicuramente si sta profilando sempre più forte, di dire anche possiamo anche fare a meno di Atene nell'Europa e nella zona euro. Questo per quel che succede in Europa. In Italia invece, venendo alle cose nostrane, qualche giorno fa il Sole 24 Ore ha fatto un calcolo che ha un po' inchiodato questo governo, il governo Monti, sul fronte della responsabilità dei cosiddetti decreti attuativi, cioè tutte queste riforme che sono state fatte, annunciate, alcune dette, alcune date per già fatte o comunque sulla via della realizzazione, in realtà poi si scontrano con dei dati, quelli dei decreti attuativi, i decreti che servono poi per fare entrare in vigore la legge. Ebbene, sono dati che hanno un po' impietosamente dimostrato che il percorso in realtà, rispetto a quello che è stato annunciato, è ancora più complicato, più lungo. E allora ecco che il ministro alla funzione pubblica, Patrone Griffi, oggi rilascia un'intervista al Corriere della Sera, la trovate a pagina 3, intervista di Antonella Baccaro, nella quale Patrone Griffi effettivamente dice: quanti provvedimenti servono per attuare le riforme del governo Monti? Non ho fatto il conto, dice Patrone Griffi. Giarda, cioè il ministro dei rapporti col Parlamento, ci ha disegnato uno schemino, dice più della metà. Effettivamente abbiamo fatto riforme strutturali e ordinamentali, alcune mai realizzate prima, come le liberalizzazioni notarili e forensi, sia pure non integrali, molte semplificazioni, pensioni, lavoro, le circoscrizioni giudiziarie, le province. E già, ma tutto sulla carta, chiede Antonella Baccaro. Sono riforme poche, molte, buone o meno, che governi strettamente politici con i normali condizionamenti non avrebbero potuto fare. Sì, ma ancora, insiste Antonella Baccaro, ora bisogna concretizzarle con i decreti attuativi, bisogna metterle sotto chiave. A Giarda e Catricalà, risponde Patrone Griffi, proporrò un cronoprogramma. Mettiamo nero su bianco gli adempimenti, quelli già fatti, quelli da fare, tutti con le scadenze richieste alle singole amministrazioni. Il metodo che ho seguito per me e ha funzionato. A proposito, veniamo al taglio delle province. Sapete, cari ascoltatori, che questa è un po' la farsa che almeno da 20 anni, forse anche di più, si viene propinata, no? Periodicamente. Però forse stavolta ci siamo. Sentite cosa risponde il ministro Patroni Griffi. Una volta raccolte le proposte che vengono dalle autonomie locali, dovremo fare probabilmente un decreto che zonizzi definitivamente tutte le circoscrizioni provinciali nuove. Parallelamente, ma con l'intenzione di concluderlo prima, bisogna emettere il regolamento per l'organizzazione di tutti gli uffici periferici dello Stato. Non so se avete capito, ma la domanda, giustamente Antonella Baccaro dice, quindi è un sì, cioè tagliate le province? E la risposta del ministro è dovremmo farcela. Dovremmo farcela, appesi a questo condizionale, dovremmo farcela. In realtà sul Sole 24 Ore c'è un articolo, un paio di articoli che trovate, uno di Antonello Cherchi a pagina 12, dal titolo Le province passano ai sindaci, si parla proprio di questo decreto, entro il 5 settembre il decreto che fissa le funzioni da trasmettere ai comuni, un programma di riordino tutto scalettato, trovate un'infografica sul Sole 24 Ore per capire che non è che è una questione di volontà politica, c'è una questione di burocrazia, di complicazioni, di decreti attuativi da fare. Non è semplice, è inutile negarlo, non è semplice, non è mai semplice nulla in Italia. Entro il 5 settembre appunto questo decreto che fissi le funzioni da trasmettere ai comuni. In realtà a pagina 10 sempre del Sole 24 Ore trovate che c'è anche già una svista nelle date, per cui ci sono perplessità, sicuramente dure a morire, forse stavolta dovremmo farcela, come dice il ministro Patroni Griffi, non si sa, siamo tutti un po' in attesa. Intanto, che cosa si è inventato per esempio Fedele Sanciu, che è stato anche nostro ospite, che era o è ancora il presidente della provincia di Olbia in Sardegna, una di quelle province che è stata cancellata per referendum, si è inventato, ecco l'alternativa, come fare a non scomparire in una regione in cui dovrebbe rimanere tra l'altro la sola provincia di Cagliari in tutta la Sardegna. Si è inventato la provincia tirrenica, cioè ha detto uniamo la provincia di Olbia, Nuoro e l'Ogliastra, praticamente tutta la costa orientale dell'isola, e facciamo una bella provinciona gigante che risponda ai criteri, quelli di territorialità estesa, di popolazione, eccetera, e ci salviamo anche noi. Insomma, ecco, con queste resistenze, con questi localismi, con queste resistenze locali, poi bisogna fare i conti. Giustamente anche sul Messaggero a pagina 2 c'è tutta una pagina dedicata alle province, rivoluzione al vie, saranno 50 entro dicembre, segnatevi questa data, saranno 50 entro dicembre, che ci crediate o no, il ministro Patroni Griffi dice dovremmo farcela, staremo certamente a vedere. Io voglio rimanere sul Sole 24 Ore perché oggi sul Sole c'è, prima di gettarsi nell'agone della politica dove volano insulti, soprattutto a sinistra, sul Sole 24 Ore c'è un'interessante analisi e una mappa vera e propria dell'evasione fiscale. Allora, intanto sono due gli interessanti articoli e approfondimenti sul tema evasione. Il primo è quello che dà il titolo proprio di prima pagina, il rischio evasione cresce al nord. È un'elaborazione condotta dal centro studio Sintesi, che offre uno spaccato dell'Italia di fronte all'evasione fiscale. Cristiano Dell'Osta ne parla a pagina 3. I ricercatori cosa hanno fatto? Sono partiti da 7 indicatori di benessere, le auto di lusso, le case di pregio, eccetera, li hanno condensati in un numero che esprime il rapporto tra ricavi e spese. Allora, il numero 100 è la media nazionale. Se il punteggio è più alto, cioè supera i 100, vuol dire che siamo in regioni in cui i consumi sono in qualche modo giustificati dai redditi. Allora in questo caso abbiamo la mappa di una sorta di fedeltà fiscale, soprattutto per l'Emilia-Romagna, dove questo numero è 147. Dunque più supera i 100 e più, secondo questa analisi, vuol dire che ripeto, i consumi sono in qualche modo giustificati dai redditi, sono, si guadagna tot e si consuma tot, c'è una non ci sono grandi discrepanze. 147 l'Emilia Romagna, poi 140 Friuli Venezia Giulia, 129 Trentino Alto Adige, si scende, 132 Piemonte, comunque tutti sopra il 100. Diciamo che la spaccatura è netta tra nord e sud, perché si va al sud e qui si trovano dati ben al di sotto di 100, che ripeto è quel termine medio che fa capire che c'è una parità, diciamo, tra i consumi e i redditi, una corrispondenza. In Campania siamo a 54, in Sardegna 49, in Sicilia 47, in Puglia 58, in Calabria 50, insomma una spaccatura nord e sud. Comunque gli indicatori li trovate tutti a pagina 3, ma soprattutto a pagina 4 e 5 trovate l'identikit degli evasori d'Italia, cari ascoltatori, cioè il radar anti-evasione secondo 19 profili elaborati dalla task force del governo, ovviamente poi con le conseguenti strategie per la prevenzione e la repressione fiscale. Quali sono le 19 tipologie? Che ne so, alcune, quelli che non prendono lo scontrino, le finte società, le frodi su IVA e dazi, le finte onlus, i patrimoni all'estero, gli affitti in nero, le frodi sulle accise, ne ho dette solo alcune, le case fantasma, le società cartiere, 19 profili, tutti dettagliati, uno per uno li trovate, come la task force del governo li ha disegnati e poi come andrà a stanarli uno per uno. Questo almeno è il proposito del governo Monti, no, che ha tuonato moltissimo anche quest'estate nei confronti dell'evasore fiscale. Tra poco, dopo il traffico, rientriamo con la rissa tra fascisti e piduisti e falliti, soprattutto a sinistra, tra Bersani e Beppe Grillo, non se ne mandano a dire. Allora, si avvicina la campagna elettorale, oppure siamo già in campagna elettorale, siamo in permanente campagna elettorale in Italia, e volano stracci, insulti, soprattutto a sinistra. Questo almeno è il titolo d'apertura del Corriere della Sera, una grande rissa a sinistra. Poi bisognerebbe capire se Beppe Grillo sia di sinistra oppure no, o il movimento, diciamo, il Movimento 5 Stelle, così comunque viene identificato dal Corriere della Sera. Grillo contro Bersani, sei fallito amico della P2, sapete, Bersani aveva qualche giorno fa detto risposto agli attacchi dal web fascista. Ed eccolo qui la risposta di Beppe Grillo: si rassicuri, lei non è un fascista, è solo un fallito, lo è lei insieme a tutti i politici incompetenti e talvolta ladri che hanno fatto carne di porco e che ora pretendono di darci lezioni di democrazia. Per rimanere a galla farete qualunque cosa. A Reggio Emilia si celebra Pio La Torre mentre si tratta con l'UDC di Cuffaro. Amen. Così sul suo blog Beppe Grillo. E le reazioni sono queste. Vabbè, c'è chi ci sguazza come Il Giornale: a sinistra fascisti contro comunisti, ovviamente con il direttore del TGCOM Mario Giordano, che fa il suo intervento sul Giornale dicendo: non sapendo più con chi prendersela, se la prendono con se stessi, un caso quasi di autismo, lo definisce Mario Giordano. Insomma, la rissa a sinistra, ma anche l'Unità replica in maniera dura a Beppe Grillo. Il titolo di prima pagina di Beppe Grillo dell'Unità è questo: Grillo non fa più ridere, insulti a Bersani, con i piduisti si è spartito le ossa dell'Italia. Il PD risponde: siamo al delirio. C'è tra l'altro la risposta, per esempio, di Boccia del Partito Democratico, che definisce Grillo un milionario in pantofole che dall'alto della sua villa dà ordini a chi non crede più nella capacità della politica. Insomma, una rissa in piena regola. Zombie, larve, morti, la violenza virtuale del gergo a 5 stelle, così l'Unità raccoglie un po' tutti i vari interventi di questi mesi sul blog di Beppe Grillo. Effettivamente uno che, quando poi vuole partire con gli epiteti, non le manda certamente a dire. Comunque, in questa rissa verbale c'è da registrare, dal punto di vista della politica, tre cose che vi voglio segnalare. La prima, sempre dal Corriere della Sera: Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, ha deciso si candida alle primarie del PD. Nell'articolo di Tommaso Labate che trovate a pagina 11 del Corriere, Renzi si candida, c'è anche una data, al 13 settembre partirà il suo camper in giro per l'Italia, per le 108 province italiane, che speriamo possano essere 50 presto, comunque insomma per tutta Italia. Tra l'altro fanno notare che ricorda molto l'iniziativa del camper di Romano Prodi, ricordate, no? Ebbene, nessuno potrà accusarmi di aver rinunciato a fare il sindaco. Se una sera sono in Piemonte col camper, sarò a Firenze il giorno dopo, si viaggerà di notte. Così Matteo Renzi, che dice a Tommaso Labate che non sono di sinistra, lo pensano alcuni dirigenti del mio partito, ma non gli elettori. A Firenze, nei quartieri borghesi, ho vinto, in quelli popolari ho stravinto. Insomma, Matteo Renzi che dice: non attaccherò però mai personalmente il segretario, la mia sarà una campagna all'insegna del fair play. E in ogni caso questa è la campagna di Renzi, il suo credo: inspire a generation, cioè ispirare una generazione, la generazione che, dice Renzi, Monti ha definito in maniera sbagliata in un'intervista una generazione perduta. Invece gli errori della sua generazione non possono trasformarsi nelle nostre paure, dunque rilanciare la sua generazione. Questo Matteo Renzi. La seconda cosa che vi voglio segnalare è un'intervista a Gianfranco Fini, presidente della Camera, intervistato da Repubblica. In realtà non è che chiarisce molto i punti sul grande centro, sull'alleanza possibile con Casini, sull'appoggio possibile a Bersani premier qualora vincesse il Partito Democratico le prossime elezioni. In ogni caso Fini dice: il prossimo governo sarà politico, ma sul premier deciderà il Colle. Che cosa dice Fini? Beh, intanto risponde sulla questione della scorta che quest'estate lo ha tirato ancora in ballo con polemiche. Intanto attacca Libero, il giornale, che danno voce alla vera pancia del berlusconismo, quella che ha bisogno di nemici, che vive più di anatemi che di strategie, ed è la dimostrazione che per Berlusconi rappresento ancora un ostacolo. Sulla scorta, la responsabilità o l'errore, ammesso che ci siano stati errori, non sono certi dello scortato, degli agenti addetti al servizio. Comunque ora è essenziale che si passi ai fatti e si rimetta ordine all'intero sistema. E poi, per quel che riguarda la politica, dice: lasciamo perdere i nomi, il partito della nazione, diciamo che in me e Casini c'è una comune consapevolezza di lavorare per dare una risposta a questi elettori che non sono di sinistra e non vogliono più votare per Berlusconi o per un Alfano che continua a parlare di abolire l'IMU e imposta l'ennesima campagna da libro dei sogni. E poi Future Libertà e UDC resteranno, commetteremmo un errore madornale affrontando questa sfida in esclusiva con il protagonismo dei nostri rispettivi partiti. Dunque questa è una risposta per dire: forse non rimarranno, bisognerà creare una nuova forza politica. Sul Bersani premier usciamo, non partiamo dalla coda, dobbiamo cercare prima un'alleanza di governo su programmi e valori, poi sarà il capo dello Stato ad indicare il prescelto per Palazzo Chigi, se dovesse vincere anche il Partito Democratico come partito di maggioranza. In ogni caso Gianfranco Fini la trovate in intervista di Francesco Bei su Repubblica, pagina 9. E la terza intervista di politica, e ritorna Giulio Tremonti, torna a parlare, fa un'intervista al Corriere della Sera, pagina 5. Giulio Tremonti intanto parte attaccando la riforma Fornero in maniera frontale. Dice: la riforma del lavoro applica come tecnica quella del legislatore onnipotente, è una riforma che invece di produrre occupazione a tempo indeterminato produrrà disoccupazione a tempo indeterminato. Per questo il governo dovrebbe sospenderla. Ammettendo l'errore, sospenderebbe con un decreto l'applicazione delle nuove norme. Parte da questa analisi molto dura Giulio Tremonti. Poi dice: l'articolo 18 ha un impatto minimo in Italia, è giusto cambiarlo perché ha un valore totemico, cioè un totem, no? Era necessario mandare un messaggio all'estero, ma alla fine si è deciso di passare per via giudiziaria, e notando il caso Ilva non mi sembra che la riforma funzioni nemmeno come spot all'estero. Tremonti dice: c'è 1 milione di persone che nei prossimi mesi rischiano di rimanere senza lavoro perché non si vedranno rinnovare il contratto a termine, è un caso di esodati 2, anzi ancora peggio, perché a differenza degli esodati veri e propri, che fra qualche anno una tutela l'avranno, questi vanno a casa, punto e basta. Questa è l'analisi della riforma Fornero, direi tragica almeno nelle previsioni, secondo l'ex ministro Giulio Tremonte, che poi eccolo qui alla domanda di Lorenzo Salvia: lei cosa avrebbe fatto? Non questo e non adesso. Due anni fa da ministro diedi scandalo parlando della superiorità del posto fisso come base per organizzare la vita, ma un conto è l'ideale al quale tendere, un conto la realtà, specie adesso. E poi la domanda chiave: lei si candida alle prossime elezioni, Giulio Tremonti? C'ho come questa impressione. Questa è la risposta di Tremonti. Ci sarà una lista col suo nome? Sono contro la politica antropomorfa. E anche qui qua qualcuno può vedere una battuta anche, non so, nei confronti di un partito come ad esempio il Popolo della Libertà, che si è sempre incentrato sulla figura di Silvio Berlusconi. Questo è Giulio Tremonti. Ci sono un minuto e mezzo per qualche notizia, una di cronaca che trovate solo sul Corriere della Sera. C'è stata una disavventura per il fondatore di Grom, Guido Martinetti, uno dei marchi del gelato diventati famosi in Italia, nel mondo. Ha avuto un grave incidente stradale, questo lo leggo sul Corriere, ha subito gravi ferite, non è in pericolo di vita, anche se la persona che avrebbe tamponato in questo incidente in un'altra macchina invece è morta. Quindi un incidente con due macchine, una delle quali ha coinvolto appunto anche Guido Martinetti, il 38enne cofondatore di Grom. Un tamponamento sull'autostrada. Lui appunto è ricoverato all'ospedale Le Molinette, non rischia però la vita, ma ha subito gravi ferite, mentre è morta la persona che viaggiava sulla macchina con la quale è andato a sbattere appunto Guido Martinetti. Questo dal punto di vista della brutta cronaca, insomma, di questo incidente stradale. Chiudo così dicendo che trovate tanti articoli sulla situazione difficile del principino Harry, no, è stato sbattuto. Cosa ha fatto? È andato a Las Vegas, si è denudato, ha fatto una partita di strip poker, l'ha mollato la fidanzata, ha detto sono imbarazzata da queste foto, lo sta mollando l'esercito, dice ne fa un'altra ed è fuori. Lo stanno mollando un po' tutti, ma d'altronde ne ha combinato un'altra. Nella sua storia si è anche presentato una volta agghindato con una svastica nazista in una festa di carnevale, quindi insomma poca pietà per l'ennesima cazzata del principino Harry, che ora rischia di essere mollato da tutti. Chiudo anche col titolo della Gazzetta dello Sport: sarà un anno veramente di, come dire, spine e dolore, almeno per me e l'Alpino. Immagino Inter, la strama coppia si gioca col titolo, stramaccioni, strama coppia, i titoli sono per l'Inter, ha vinto la Juve, ha vinto la Lazio, e le altre squadre, vabbè, insomma, il Milan ha perso, stiamo un po' a vedere. Intanto il giornale radio, ripartiamo dopo le 8:20. Siamo qui alle 8:20 minuti, eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan. Ci arrivano tanti messaggi di gente che non dice che oggi non sente un po' la radio, ci sono stati questi temporali, stiamo cercando di sistemare un po' tutti i ripetitori, no? Un po' il nord Italia è stato colpito. Comunque siamo qui in diretta, allora vogliamo parlare, spesso ne parliamo, uno dei temi più seguiti, no, da tutti gli italiani, gli stipendi dei parlamentari, gli stipendi della casta, no? Tutti si lamentano di questa cosa. C'è stata una raccolta di firme, ricordate anche una delle ultime mie puntate prima della mia pausa delle ferie, in cui avevamo parlato di questo referendum, definito referendum anticasta. Voglio salutare Maria Di Prato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. E benvenuta, buongiorno, segretaria del Movimento Unione Popolare. Non parliamo dell'altra puntata, che c'era stato un disguido, no, non l'avevamo... È stato un equivoco. Un equivoco, va bene, va bene. Allora, Maria Di Prato, il segretario del Movimento Unione Popolare, che ha promosso, questa Unione Popolare ha promosso questa raccolta di firme. Quante ne avete raccolte di queste firme per tagliare gli stipendi della casta? Ne abbiamo raccolte 1.305.000. 1.305.000. Poi altre 200.000 sono arrivate dopo l'8 agosto. Senta, però c'è un problema. Secondo molti, secondo la Vulgata, queste firme sono inutili. So che voi avete pareri di costituzionalisti a dire che non è vero, non è così. Però molti dicono sono inutili perché voi avete fatto una richiesta di referendum l'anno prima da depositare l'anno prima delle elezioni, cioè l'anno prossimo, il che non si può fare per Costituzione. No, non è così. Allora, la legge, che è la 352 del 70, appunto, parla in maniera molto chiara. Non si può presentare richiesta di referendum, dove per richiesta di referendum si intende la consegna materiale delle firme in Cassazione, sì, l'anno antecedente, dove si intende anno solare, quindi 2012, sì, no? L'anno antecedente le elezioni, la richiesta, certo, di referendum. Quindi voi non potete depositare. Tanto è vero, non che potete, noi le depositeremo a gennaio, secondo quanto prescritto dalla legge. Ecco, ma qui nasce il problema, perché per alcuni costituzionalisti non è che si possono raccogliere le firme e tenerle così congelate nel cassetto, cioè scadono dopo 3 mesi. Capisco che sono tutte questioni di interpretazioni. Ci sarà, cosa farete voi? Porterete i vostri pareri di costituzionalisti a dire che tutto si può fare? Allora, guardi, questa polemica, lo dico in maniera molto chiara, è nata purtroppo da un attacco, in certi momenti abbastanza violento, che non è nel nostro stile, da parte di 5 Stelle, dove 5 Stelle, appunto, interpretando, diciamo, una sua propria filosofia, ha detto che questo referendum è una bufala. Non è così. Noi abbiamo fatto 2 momenti importanti. La prima, abbiamo rispettato ciò che la legge ci chiede. La legge ci impone, perché se noi guardiamo la legge, e io non vorrei molto entrare nel formalismo, sì, infatti, perché, anche perché tra l'altro né io né lei siamo costituzionalisti, infatti, quindi abbiamo grande rispetto per le istituzioni e per i professori e le professoresse di diritto costituzionale. Però da quello che chiaramente emerge è che la legge mi vieta di presentare queste firme, vieta a Unione Popolare di presentarle. Perfetto. Infatti l'articolo 28 lo dice in maniera chiara, salvo quanto disposto dall'articolo 31, sì, le firme vanno raccolte e depositate entro 90 giorni. I 90 giorni vengono rispettati nell'ordinarietà, cioè nel momento in cui non ci sono delle elezioni politiche. Ah. Ma qui siamo in un momento straordinario. E quindi i 90 giorni, secondo lei, dovrebbero, secondo alcune interpretazioni costituzionali. Scusa, finisco il concetto. Salvo il disposto dell'articolo 31, se io vado a leggere l'articolo 31, l'articolo 31 mi dice che io non posso consegnare le firme, come dicevo l'anno prima, sì, no? E quindi le consegneremo a gennaio. A gennaio. Però appunto, per non entrare in questi tecnici, perché ce l'ha con Beppe Grillo il Movimento 5 Stelle? Cioè, perché avrebbero dovuto ostacolare un referendum, guardi, visto che anche loro si battono su questi temi? Allora, noi onestamente non abbiamo compreso fino in fondo questo atteggiamento di Grillo e dei grillini, perché ci aspettavamo da loro un atteggiamento di appoggio, così non è stato, perché purtroppo noi non solo siamo stati diffamati, perché ci sono stati anche appunto ampi spazi del Movimento, ampi rappresentanti del Movimento 5 Stelle che hanno addirittura detto che queste firme noi le avremmo utilizzate per le elezioni, che avevamo preso il rimborso elettorale, sì, sì. Non è così. Perché Unione Popolare rinuncia già dall'inizio, ha rinunciato all'eventuale rimborso, che tra l'altro vorrei chiarire non avviene con le firme. Si immagini, farebbero tutti i referendum in Italia, no? Se io apro un banchetto, cioè se viene riconosciuto legittimo, voi prendete un po' di soldi. Noi abbiamo già detto che rinunciamo, perché cioè, sarebbe quindi un controsenso. Noi non siamo per l'antipolitica, come fanno i grillini, noi siamo l'anticassa. Cioè, noi vogliamo che questa classe dirigente cambi, che ci sia una classe dirigente basata sul merito in questo paese. Tanto è vero che abbiamo, e qui viene l'aspetto più interessante di questo referendum, cioè questo referendum, al di là di quella che è il formalismo, come dice giustamente lei, il tecnicismo e tutto il resto, ha un valore politico straordinario. Sì. Perché gli italiani hanno detto, cari parlamentari, visto che noi tutti stiamo facendo dei sacrifici, ci è sembrato strano la vostra inesistente sensibilità nel ridurre anche voi i vostri. No, no, ma infatti, quindi volete fare. Però capisce che se dovessero. Mettiamo il caso che alla fine alcuni costituzionalisti dicono che sono inutili. Per esempio, Valerio Nida, uno dei ex presidenti della Corte Costituzionale, dice che queste firme sono inutili. Se fosse così, mettiamo a caso, voi avete raccolto 1 milione e quello che mi ha detto di firme, cioè, e che avete fatto? Avete preso in giro i cittadini che hanno, no, sono venuti a firmare? Attenzione con le parole. Cioè, se fosse così, andiamo per ipotesi. Non abbiamo preso in giro nessuno, perché comunque i primi che ci hanno messo la faccia siamo stati noi, e se mi consente anche le risorse economiche per fare questo referendum. E però se fosse poi tutto una bolla di sapone, che succede? Perché dovrebbe esserlo? Vabbè, è un'ipotesi, ripeto, siccome alcuni costituzionalisti dicono che è così. Lei sa che Unione Popolare è stato il primo movimento promotore anche del referendum contro questa ignobile legge elettorale. Il professor Onida, insomma, verso il quale io ho grande rispetto, fu tra quelli che disse: questo referendum è assolutamente legittimo e valido, e poi purtroppo la Corte Costituzionale ha bocciato i nostri quesiti. Quindi voglio dire. Perché questo accanimento su Unione Popolare? No, ma io sto facendo un'ipotesi, cioè ci sarà un pronunciamento, poi la Corte Costituzionale dovrà decidere se sono ammissibili o no. No, non sarà la Corte Costituzionale, sarà la Corte di Cassazione. Sì, la Corte di Cassazione. Dovrà esprimersi. Perfetto. E va bene, ma io sto facendo un'ipotesi. Potrebbe capitare che vi boccino questa. Può capitare, no? Può capitare che vi boccino queste. Che non li giudichino ammissibili. Voi dovranno motivarlo. E va bene, è certo che lo motiveranno. Perdoni, dovranno spiegarlo. Allora, quando lo spiegheranno, noi cercheremo chiaramente di portare avanti la nostra tesi, che per noi le firme sono valide, sì. Il referendum è stato indetto con tanto di presentazione del quesito presso la Corte di Cassazione, sì. 1,5 milioni, perché a questo punto di cittadini italiani hanno firmato, e il segnale forte che noi vogliamo dare è che siano anche i parlamentari a fare questo. Quindi voglio dire, quando il Fatto Quotidiano titola che anche lei Maria Di Pato sa che in realtà sono inutili tutte queste firme, lei respinge queste accuse, dice non è allora, vero. Guardi, io ho molto rispetto per il direttore del Fatto Quotidiano. Sì. Sono allibita davanti ad un articolo del giornalista, sì, vabbè, che ha scritto delle cose inaudite. Vabbè, quale se non c'è replicare. Sfiorano la diffamazione. Addirittura. Io non ho mai detto cose di questa natura. Allora, ma no, quello era il titolo. Il titolo, secondo il Fatto Quotidiano, sono inutile. Ha letto il resto dell'articolo. Sì, tutta è l'intervista. Un articolo assolutamente artefatto. Per cui io scriverò al Fatto Quotidiano e mi tutelerò nelle sedi opportune. Vabbè, questo però è una questione che non ci riguarda. Mi faccio fare un'ultima domanda, che devo andare in pubblicità. Lei si candida alle elezioni prossime? No, noi vorremmo che Unione Popolare portasse questo nuovo messaggio di cambiamento. Cioè, candidando. Unione Popolare ci sarà. Ci sarà. Ecco perché, voglio dire, mi faccia fare il malizioso, non è che avete raccolto appunto queste firme per testare anche, per poi spenderle, cioè contattare queste persone che poi hanno, capisce? Vabbè, direttore, l'Unione Popolare non è che è nuova a queste battaglie. Noi in tempi non sospetti abbiamo presentato già il referendum contro il Porcellum, non è stato mica Di Pietro e gli altri, è stata Unione Popolare a presentare il quesito in Parlamento, poi in Cassazione, poi si sono uniti i partiti. Unione Popolare ha fatto la battaglia fuori i politici dalla RAI e ha raccolto le firme anche per questo, quindi non è che è arrivata adesso fresca Unione Popolare per fare questa operazione. Combatte tutte le inequità. Ho capito, ignoranza mia, non è che finora ne avevo mai sentito parlare, insomma, come non so, come i grandi partiti, Unione Popolare. Però se la stampa ci desse un po' più di spazio, non solo noi, ma c'è una classe dirigente nel paese consapevole e meritevole che potrebbe emergere. Va bene, comunque ce ne sono tanti, guardi. In bocca al lupo, vedremo se poi Unione Popolare in quale modo si candiderà e cosa è che candidati esprimerà alle prossime elezioni. Grazie per essere stata grazie con noi. Lei. Grazie a Maria Di Prato, leader di segretaria di Unione Popolare. del movimento che ha promosso questo referendum anticasta così dibattuto, discusso. Torneremo a parlarne, vedremo se poi la Cassazione giudicherà ammissibile o no l'anno prossimo a questo punto il referendum. Ci fermiamo, noi vogliamo parlare tra poco di sport e doping, un tema che non riguarda solo le Olimpiadi, non riguarda solo le Paralimpiadi, hanno beccato un azzurro, l'ha squalificato, non riguarda solo il ciclismo, Lance Armstrong. Il mondo del doping è diffuso anche negli sportivi della domenica, anche tra i dilettanti, in una maniera molto più invasiva e pervasiva di quello che si vuole credere, quello che forse si vuole dire. Questa è la realtà sotto gli occhi, è inutile negarlo. Ne parleremo tra poco. 800 24 00 24. 24 mattino. Eccoci qua, allora, le 8:34 minuti. Lo so che ci state chiamando in tanti, che in tanti ripetitori non si sente in tutta Italia, no, in tutta Italia, una parte d'Italia, soprattutto al nord, dove ci sono state dei temporali, le tempeste. Stiamo sistemando i ripetitori. Comunque siamo qua, 800 24 00 24. Allora, vogliamo parlare del mondo del doping nello sport, cari ascoltatori. Tra l'altro ci sono le Paralimpiadi a Londra che seguono le Olimpiadi di quest'estate. C'è già un caso di doping tra gli azzurri, eh? Un atleta è stato fermato, è stato squalificato. È stato fermato dal CONI per i suoi controlli. Si tratta dell'azzurro Macchi. Il motivo è il doping, è lo stesso che ha stravolto la carriera nello psicodramma estivo anche di Alex Schwarzer, il nostro marciatore. È lo stesso problema che sta coinvolgendo un grande ciclista, Lance Armstrong, un uomo che ha vinto dopo aver sconfitto anche il cancro, quindi una testimonianza anche personale di vita molto forte. Ha vinto, anzi ha stravinto 7 Tour de France ed è tornato nel ciclone e nelle bufera, perché probabilmente è stato già radiato, gli verranno tolti tutti questi titoli. Tra l'altro un Lance Armstrong che ieri ha fatto la prima dichiarazione pubblica, ha partecipato a una gara amatoriale di mountain bike, credo, alla fine ha detto questo, ve lo facciamo sentire in originale, e questa è la voce di Lance Armstrong che dice: non piangete per me, io ormai si sono concentrato sulla fondazione, non mi interessa più la questione del ciclismo, sentite, continuiamo il nostro lavoro, non mi interessano tutti queste notizie, queste voci. Avete sentito, non mi interessa più di correre, ormai sono concentrato su altre cose, la sua fondazione anticancro, eccetera. Insomma, Lance Armstrong che combatte. Il mondo del doping, vogliamo partire da due domande che io voglio fare e vorrò fare ai miei ospiti che sono qui collegati con me. Lo sport e il doping. Quando voi vedete, voi cari ascoltatori, questa finale straordinaria dei 100 metri, che è l'emblema delle Olimpiadi, no? Anche quest'anno con questo Usain Bolt straordinario, cosa pensate? Pensate che quegli atleti siano il frutto di tanto lavoro sicuramente, che siano delle persone pulite dal punto di vista del doping? E se avete invece dei dubbi sulla loro onestà, cosa fate? Continuate a guardare questo circo dello spettacolo, dello sport, che comunque è un qualcosa che vi tiene inchiodati alla TV, tiene inchiodati miliardi di persone alla TV, perché è un qualcosa in cui si vuole credere? Ne vogliamo parlare intanto con Pietro Mennea, che saluto. Pietro Mennea, buongiorno. Buongiorno. È una grande, grande atleta italiano, olimpionico, anche lui detentore per tantissimi anni del record mondiale dei 200 metri. Quanti anni l'ha tenuto questo record? Quasi 17. Quasi 17 anni, 19,72 giusto, sì. No, il tempo. Quindi sono venuto prima di Usain Bolt. Certo, prima di Usain Bolt, olimpionico nell'80. Saluto anche il professor Sandro Donati. Buongiorno, professor Donati. Buongiorno a lei e a tutti. Professor Donati è un consulente oggi della WADA, cioè l'Agenzia Mondiale dell'Antidoping, per la quale credo ha presentato un rapporto poco fa, qualche giorno fa, quindi ci darà anche dei dati molto freschi sull'utilizzo del doping. È stato un ex allenatore di squadre nazionali di atletica, è stato anche dirigente del CONI, ha scritto un libro, ne sta pubblicando un altro su questo tema. Mennea, io la faccio a lei direttamente la domanda secca sulla finale dei 100 metri, visto che è pane per i suoi denti, è stato per tanti anni. Che dobbiamo credere quando vediamo questi 9-10 atleti che arrivano in finale, che sono tutti puliti, che è l'emblema dello sport pulito? Dobbiamo credere che è uno sport pulito, però bisogna anche fare delle considerazioni. Io faccio, dal lato della mia esperienza, io sono considerato ancora tutt'oggi come colui che si è allenato di più al mondo, eppure quando ho iniziato a 16 anni pesavo 68 kg, ho terminato la mia carriera agonistica a 36 anni che pesavo 69 e mezzo. Quindi tutte queste mole di lavoro mi hanno portato a far oscillare il mio peso corporeo e quindi di conseguenza anche la massa muscolare di appena un chilo e mezzo. Oltre non sono andato. Inoltre io in 20 anni di attività agonistica non ho subito strappi muscolari, piccoli stiramenti, infiammazione all'articolazione, questo è dovuto alla mole di lavoro che svolgevo. Quindi mettere su 6-7 kg di massa muscolare utilizzando diciamo il classico medico, il metodo, cioè l'allenamento, diventa un po' difficile, però sì. Non bisogna avere pregiudizi nei confronti di chi corre, vince. Se qualcuno ha delle prove, le porti, le tira fuori queste prove, e se c'è una di queste prove che attesti la positività o che abbia fatto uso di doping, allora in quel caso lì bisogna sanzionare, ma sanzionare a dovere. Non dimentichiamo che alle Olimpiadi di Londra ci sono stati degli atleti che sono stati sanzionati per positività, che hanno gareggiato e hanno vinto medaglie in questa Olimpiade. Quindi questo, secondo il mio modesto parere, questi atleti non dovevano far più ritorno nel mondo dell'agonismo. Però lei dice che ci sono delle situazioni visibili, visto che ha fatto l'esempio molto, molto chiaro dell'aumento della massa muscolare, che però di per sé possono magari generare qualche sospetto, però più in là non si può andare se non si ha una prova concreta. Sì, sì. No, non bisogna avere assolutamente dei pregiudizi, però nello stesso tempo bisogna tirare fuori prove che attestano come ed è un po' il caso di Armstrong. Qui adesso lui viene messo in discussione a distanza di anni, perché in tutti questi questo periodo che ha svolto attività agonistica, l'USADA, l'agenzia americana antidoping, ha acquisito delle prove che, stando a quello che non conosciamo noi le carte, perché siamo al di fuori, hanno attestato e attestano come la sua carriera non è stata tutta pulita. Tra l'altro è discutibile. Si dovrà capire, vorrei dal professor Donati, bisogna capire quanto queste prove anche postume, se è giusto che ci siano delle prove postume, perché spesso magari uno i controlli li fa durante la carriera, non si viene a sapere, e invece si vengono a sapere delle cose dopo. Oppure, voglio fare il malizioso, professor Donati, se non sia stato comodo, per esempio, avere per il ciclismo una figura straordinaria, anche umana, dal punto di vista di Lance Armstrong, per la sua battaglia personale contro la malattia, che ha vinto, è tornato in sella e ha stravinto poi dominando 7 giri del Tour. Allora, faceva comodo come immagine a tutto lo sport, e anche uno sport come il ciclismo, oppure si è scoperto tutto dopo? Ma è così come dice lei, è evidente che questi campioni o apparenti tali servono a diversi soggetti e forse anche al pubblico, diciamo, per emozionarsi. Come stanno le cose su Armstrong l'hanno già spiegato i responsabili dell'Agenzia Nazionale Francese Antidoping, che dicono come sistematicamente lui facesse ritardo una volta convocato nei controlli antidoping, di quei 20-30 minuti che tutti noi sappiamo sono decisivi per poter coprire delle tracce, per poter diluire magari usando delle sostanze opportune. E già ci sono molti indizi, perché risultò positivo un suo campione del 1999, fu scritto un libro da un coraggioso giornalista inglese, David Walsh, che aveva già raccolto molte testimonianze di suoi ex compagni di squadra, della sua ex fidanzata, dei medici dell'ospedale dove era stato operato. Quindi io direi che i segnali c'erano, ma quello che è evidente è che il sistema sportivo fa tutto il possibile per non trovare casi di positività e meno che meno per scovare le responsabilità che sono a monte. Secondo allora, ecco, mi ci può dare qualche numero, visto che lei ha fatto appunto questa relazione per la WADA di recente, quanto è diffuso il doping nel mondo dello sport? Se è chiaro che ci sono poi vari livelli di sport e varie tipologie di sport anche. Ma guardi, io le dico una cosa, già nei controlli del mondo sportivo amatoriale fatti dalla commissione di vigilanza sul doping del Ministero della Salute viene sistematicamente trovato un 4% di praticanti che sono positivi e circa il 60% dei praticanti sportivi abusano comunque di farmaci che sono antinfiammatori, antidolorifici, quindi è evidentissimo che c'è una cultura diffusa. Ora, se il fenomeno è così diffuso a livello amatoriale, immaginiamo come possa essere a livello elevato, dove subentrano altri interessi giganteschi. Ed è chiaro che qui i numeri non reggono più, perché secondo me i positivi sono 0,3, 0,4, praticamente nessuno. Sì. Addirittura il sistema sportivo ci farebbe pensare che i positivi tra gli sportivi amatoriali siano 10-15 volte più rispetto agli atleti di alto livello, che è possibile. C'è il cellulare che un po' l'abbandona, non so se c'è un po' di vento che sentiamo. Comunque andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi ripartiamo con il professor Sandro Donati, con Pietro Mennea, con anche qualche ascoltatore, il doping e il mondo dello sport. Allora, prima di tornare da Pietro Mennea, vorrei sentire Carlo da Cervia, ci ha chiamato all'800 24 00 24. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Intanto volevo salutare il grande Pietro Mennea, che a mio avviso rimane l'attuale titolare del record di 200 metri tra gli umani, perché quelli che sono venuti dopo non sono... Cioè lei ha già deciso che tutto quello che vediamo è così, è finto, insomma. Non tutto, ma buona parte. A partire da un personaggio che è stato preso come esempio di pulizia, il buon Carl Lewis, che hanno visto tutti a una certa età avere la dentatura deformata e portare l'apparecchio, chissà per quale motivo. Questo poi potrà chiederlo al buon Mennea, forse le potrà dire. Quindi lei questo voleva dire, cioè che non crede. No, vuol dire che sì. Ho praticato il ciclismo a livello agonistico per svariati anni, a livello amatoriale, quindi correvo con non professionisti assieme ad ex professionisti. Sì. E la diffusione del doping, perlomeno nel ciclismo, ma anche in altri sport, per quello che so, è devastante. Ce la può quantificare? Cioè, non so. Ma allora adesso quantificare è difficile, perché... Su dieci atleti con cui lei correva, ecco. Allora, atleti di punta, quindi agonisti sempre amatoriali, parlo adesso non parlare professionisti, sì. Però atleti amatoriali su atleti di punta, quindi gente che vince gare o che comunque arriva bene, secondo me un buon 30% assumono qualche tipo di sostanza dopante, quindi EPO, CERA, piuttosto che sì. Testosterone diffusissimo, ormone della crescita diffusissimo. Pensi che quando uscì il famoso CERA, no? Che sì, si passò dall'EPO sì. normale a questa EPO che non si trovava, la gente si accoppava per trovare questa... Insomma, questi numeri abbastanza impressionanti, Carlo. Io la ringrazio, non so, giro la sua considerazione a Pietro Mennea, al quale volevo farò una domanda, ma subito dopo non so se vuole rispondere a Carlo, che ha tirato in ballo Carl Lewis o comunque tutti coloro che sono arrivati, la generazione di atleti dopo il suo di record, che Carlo considera ancora l'unico record umano attualmente ancora in vigore. Mennea. Guardi, non vorrei entrare nel specifico riferendo ai singoli nomi, però io parlo in generale. Io non ho mai messo nessun apparecchio ai denti. Io, diciamo, i miei denti non sono perfetti, ma anche non potevo permettermi, diciamo, un apparecchio per quello che si usa per i bambini, per mettere, diciamo, in ordine quella che era la mia, perché è una cosa diversa, insomma. Qualcuno fa uso di apparecchio perché attraverso una cura particolare poi si sposta così quella che è l'occlusione Sì, il sospetto dell'ascoltatore è che addirittura nel caso di Carl Lewis ci fosse stata una deformazione legata, appunto, immagino, all'uso di sostanze, e quindi ha dovuto compensare. Io non ho avuto questi problemi 20 anni, come dicevo, avevo una bocca non perfetta, ma dovuto, perché non potevo andare dal dentista, perché a farmi mettere un apparecchio che mi aiutasse, appunto, quando ero piccolo, a chiudere bene questa no, ma questo sì. Senta, ma quando ha visto quest'estate Alex Schwarzer, l'ha visto anche lei, questo psicodramma, a me la cosa che ha più colpito è di Schwarzer, che ha detto: io a un certo punto ho fatto questo errore, ho preso questo perché volevo stare davanti, che a me fa venire il sospetto, come dire, perché io so che anche gli altri lo prendono e quindi volevo competere. Ecco, a lei mai è venuto questo dubbio, questa idea di dire ci sono altri magari che si dopano e quindi io se voglio stare... Sì, io ho partecipato a 5 Olimpiadi, quindi il doping c'era, in tutte le Olimpiadi a cui ho partecipato il doping c'era, c'era il doping di Stato, il doping nei paesi liberali, quindi famosissimo nei paesi dell'Est, un paese di 17 milioni di abitanti che nel mondo dell'atletica vinceva, e non solo, anche nel nuoto, vinceva, diciamo, moltissime medaglie ai giochi olimpici, a partire dal 72, 76 e poi a seguire lo stesso a Mosca, però noi siamo riusciti a battere questi atleti che facevano uso di doping. Il caso Schwarz è un caso di doping acclarato in base a una confessione, quindi è un atleta che deve essere, ha sbagliato e va sanzionato, però io andrei oltre. Questo è un caso che viene fuori a distanza di anni, cioè io mi rifaccio a 30 anni fa, sì. C'era una classe dirigente in Italia che attraverso delle convenzioni che vennero stipulate con un gruppo di medici discutibili di Ferrara, introdussero questi medici nello sport italiano e i metodi che utilizzavano per poter aiutare la prestazione agonistica di alcuni atleti che facevano parte di alcune discipline dello sport italiano. Sì. È lì che bisogna andare a colpire e a trovare il colpevole. Mm. Invece quella classe dirigente, un po' tutta quella classe dirigente che ha le sue colpe, non solo Schwarz, perché deve, come dicevo, deve essere sanzionato, gira, occupa posti di rilievo nello sport internazionale e nazionale, pontifica sullo sport mondiale e nazionale, detta strategie, sono quelli che hanno accusato anche Schwarz ha compiuto un gesto infame. No, ma lei mette il dito nella piaga, forse anche il professor Donati su questo punto può dirci qualcosa. Lei, professor Donati, che è stato tanti anni nel CONI, identifica in questo uno dei problemi, come dice Mennea, cioè non si vogliono a volte, spesso, controllare, o meglio, far emergere le problematiche legate al doping perché il pesce puzza dalla testa? Ma guardi che il sistema sportivo è tutto così, non soltanto in Italia, anche all'estero. È assurdo che venga affidato allo sport di controllare se stesso, perché è chiaro che con gli interessi di carriera ed economici che ci sono di mezzo, il sistema sportivo farà in modo di prendere il minor numero possibile di atleti positivi. Ed è chiaro che la matrice, diciamo, della corruzione viene dai dirigenti, dagli allenatori e dai medici, che negli anni sono selezionati per pregiudicatezza e occupano ormai tutti i posti di rilievo nelle squadre nazionali o nei comitati olimpici. È tutta gente che io chiamo, con un'espressione forse un po' forte, ma i medagliari. È gente che probabilmente è specializzata a ricercare quello che poi tutti si aspettano, i media, il pubblico, gli sponsor. Quindi qui è una responsabilità collettiva, lo dobbiamo dire. Quando arriva l'Olimpiade sembra che scatti una specie di rito e tutti sentono di aver diritto. Però cosa dovremmo fare, professor Donati? Cioè, non è sbagliato guardare quella finale dei 100 metri pensando di vedere uno spettacolo di sport? Ma dunque, guardi, intanto prima di tutto bisognerebbe pretendere effettivamente che all'interno di ogni paese nascessero delle agenzie antidoping indipendenti e non affidare al sistema sportivo il controllo di se stesso. E da questo punto di vista bisogna dire che in Italia questo non è avvenuto. In Italia non c'è un'agenzia indipendente, perché l'agenzia antidoping è gestita direttamente dal CONI e i governi, destra o sinistra che sia, lo hanno consentito. Questo è un punto di partenza, quindi ci sono delle complicità. Il primo passo da fare sarebbe questo, quello della ricerca di un'agenzia indipendente. Diciamo, questo a livello di politica, se vuole, sportiva, però io mi metto dalla parte di colui che ama lo sport e accende la TV e guarda uno spettacolo. Il pubblico deve essere anche sincero con se stesso, perché questo stereotipo del pubblico che c'ha sempre ragione, che è pieno di saggezza, è un pochino così insostenibile. Il pubblico molte volte è complice delle situazioni, gli sta bene così, perché magari sente di avere diritto a quell'emozione in quelle 3 settimane delle Olimpiadi o del Tour de France e non si pone problemi. Io ricordo sempre la storia del salto in lungo truccato di Evangelisti, 60.000 persone deluse dal salto corto di Evangelisti, 30 secondi dopo hanno dato sul tabellone elettronico una misura falsa a Roma. E quel pubblico che era rimasto deluso 30 secondi dopo gridava il proprio entusiasmo. Quindi è chiaro che dobbiamo pensare ad una responsabilità di tutti noi, una riflessione profonda. Vediamo, dare la linea a Mario da Campobasso, ci chiama. Mario, buongiorno. Buongiorno. Ma io ritengo che dare la croce addosso allo sport sia un po' eccessivo. Lo sport è uno specchio della nostra società e quindi non vedo per quale motivo, se altri segmenti sono, diciamo, per usare un eufemismo, alterati, ci si scandalizza se viene alterato lo sport, se vengono alterati eventi oppure se... Cioè, a lei va se bene, non è, va bene. Se non è ipocrita, poco ci manca, insomma, anche rilacciandomi a quanto ha detto il professore a proposito del pubblico. Però lei, Mario, è nichilista, cioè dice: siccome tutto è in vacca, va bene anche che lo sport sia così. Il problema è se scandalizzarsi mi sembra eccessivo, perché come diceva anche il professore, il pubblico del quale io faccio parte ha le sue colpe. Però, sì, ripeto, tutto è inquinato, si drammatizza troppo. Mi scusi, però, Mario, siccome tutto è inquinato, dovremmo accettare lo sport inquinato senza farne un grande scandalo. Questo è insunto. Se serve a fare tirature, se serve in nome del profitto, come la corruzione avviene nel nome del profitto, che ben venga. Però, non mi sembra che ci possiamo permettere il lusso di fare moralizzatori. Vabbè, ma non è questione di moralizzare, non so, professor Donati, lei si sente un moralizzatore, oppure, cioè, Mario da Campobasso ci dice tutto il mondo è così e quindi perché il mondo dello sport dovrebbe essere esente da persone che cercano di truccare? Non scandalizziamoci tanto, non facciamo i moralizzatori. Ma no, ma lui è realista, ma anche io credo di esserlo. Qui non è una questione di essere dei moralizzatori, qui dobbiamo essere chiari: se il sistema sportivo è anche un sistema educativo da proporre ai giovani, allora è inaccettabile in questa maniera, perché ai giovani proponiamo un esempio pessimo. No, anche perché il doping fa male, cioè nel senso fa male alla salute, no? Vogliamo chiarire una cosa fondamentale. Ma vedi, non è che soltanto fa male, è un'escalation, cioè nel senso che gli atleti poi si tengono i loro segreti e pensando che l'avversario faccia di tutto e di più, aumentano sistematicamente. Quindi è una corsa al rialzo che è chiaro che è folle di per sé. Assolutamente, io qua mi devo fermare, voglio ringraziare molto Pietro Mennea per essere stato con noi, ricordo olimpionico italiano, leggenda dello sport italiano, così come il professor Sandro Donati, di cui tra l'altro ricordo a metà settembre uscirà un nuovo libro dopo tanti anni proprio sul doping, ne renderemo conto quando uscirà, credo il 15 settembre. Grazie, seguiteci su Facebook, seguiteci su Twitter, 24 mattino siamo su Twitter, Etalino Milan invece sono io, Alino Milan, su Twitter anche, ringrazio Alessandro Longoni, oggi rientra anche Elisabetta Fusconi, rientra la squadra al completo, l'alpino Peter Bescapè è sempre lì e poi da settimana prossima invece che alle 7:20 ci alzeremo un po' prima, a domani.